每当看到人们因为不小心的疏忽造成难以挽回的损失，我的心。 提高消防意识，远离火患，幸福平安。 大音精华。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费多拉》，由莫纳科费比沃、高比卡布奇里等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。

Thank you.

Federico! Quella donna è fiera, Federico Mazzos! La principessa! Sì! Dottore! Una disgrazia! Un assassino! Il conte! Oh, bella! Oh, medico! Non vedo più! Detto all'ambasciata di Francia, la ringrazio, colpa la stessa e su di comprete. Slitta! Parla! Parla! E mi disse, andiamo al tiro, andammo, attesi un quarto d'ora, subitamente nel gran silenzio sono e spari, ascolto, nulla, più nulla tranne lunghi latrati. Oh mio stupore! Forse in nato spinto cancello corre a sindacco per avvisarlo non c'è più. E poi quel buon correndo avea lasciato sulla neve stille di sangue. Come ferito, prego mio cuore che sarò morto. ossia dunque signore va a chiedermi qui da un padiglione solitario saliamo nardo di sangue giace il conte dove acquistarmi in pugno a terra stava solo colpo esplose a parte leva il conte sì, inerme non usciva poiché era minacciato minacciato qual figlio al generale vostro capo è un nichilista fate gli appunti fu preso da una vecchia in affitto. Silenzio! Rida! Padiglione fu preso da una vecchia. Una vecchia? Una vecchia oggi recò una lettera al conte. E questa lettera? È in quel casetto. Il figlio mi fida su di me. vesti il suo nome? Non amendo. Vicino provo, sforzati, cerca. Cerca, cerca. Non trovo. Cerca. Thank you. siete un bisticcio. Principessa, ci fate languir. Ognuno porta la sua croce. Thank you. addio, addio. Oh. schiacciante. Si fanno fantasate, è veramente è un po' un altro giro. Il ballo è il cognac del lavoro. Principessa, un dispaccio ufficiale vi consiglio di sospendere la festa. Una tempata contro la sorte. sospetto, giunto appena di Russia, gli recava una lettera del fratel Valeriano. Il fratello anche lui! Null'altro. Nulla. Oh, la prova suprema, la confessione solenne. Confessa il suo delitto. Confessa. Finalmente. Egli sta per tornare. Voi scendete in giardino. Appena pronti un segno, io lo concederò. E poscia. Fate il vostro mestiere. Non un prego. Abbiamo un bavaglio. Alla voce della segna mi attende la nave di Sabella e quello suono rosso. Obbedirò, signora, o vivo o morto. Questa per l'ambasciata sia spedita all'istante a Pietroburgo. Forse al generale Yarishkin. Sarà fatto, eccellenza. Silenzio! È lui! È lui! Andate! Io salgo e gli uscito, il servo mi lascia un istante, e porra al piretto e bravo e infame e dice ti attendo stasera alle nove. Thank you. Sole, tomate, ecco, Diretta mia Parigi. Loris, ritorno presto. Subito, arrivederci. Oh, no, sir. Oh. troppe fughe. Contessa, siete forte! Io sono farciaio! Non cadrete in delirio! Una goccia sul fronte! Allor, senza riguardi, il maestro polacco, nipote successore di Chopin, il poeta del pianoforte, eccetera. Su, spiegatemi avanti. Non sarebbe un agente segreto. Una spia. Dall'imperial governo al vostro fianco messa. Per farvi chiacchierò. Fatevi cor contessa, qua giù tutto finisce e tutto ricomincia. Non è la prima volta e l'ultima sarà. L'amore Eugel di posso, se ne viene per andarsene, un rapimento. Come? In bicicletta. Bravo, mi devo ritirare. Ora restermi. Testolina sventata. Principessa, non son venuto qui per lei. Per me. L'amate molto. Oh. deliziosa. Grazie, mi sfido a raggiungermi. Siete così leggera. Non è che prendi momenti di vantaggio. È la costa. Mia madre, madre mia! la bonna, la maledetta spia che mi segue sempre ovunque, ma la breve a colei partia. Perché, ed ora da me ti scosti, uccidesti mia moglie. madre e il fratello per vendetta del tuo giovinino del crudo tuo vino ed ecco il tuo amore sirena da forca spiarmi e tradirmi Thank you. 这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科·费比沃、高比·卡布奇利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Padrini, due vecchi. vecchi amici. Vladimiro, Vladimiro, nel segreto nostro asilo, tanto assiduo egli si mostra che il sospetto mento in cuore. Mestro Anatale, partendo per il dolce castello paterno, sovvieni d'un buon promesso a mia madre. Risalgo in slitta per atto ritorno a mezzo alla via, discesa dall'uscio del nobile amico, frattiso la quante mi manda l'insepo. La donna vacilla, valletta, confessa, di manno un biglietto recuabile di mio. Io salvo e gli uscito, il servo mi lascia un istante. Io corro al diretto e trovo... Sentenzale! Che dice? Ti attendo stasera alle 9. Armato. Deserta è la prima stanzetta, vi ascolto, un'onda divisa, un'onda di baci. Sarma, spara, al fanco mi ferisce, io rispondo, ma Lucia.